Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti, da Frey e Priscilla. Ben ritrovati e ben ritrovate sulle frequenze di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio a cura del Caso S. Come ogni puntata, vi proponiamo un mix di storie da scoprire e da riscoprire assieme a noi, suggerimenti di libri che ci sono piaciuti o che ci hanno incuriosito e che vi proponiamo chiacchierando con gli autori e le autrici, date del calendario, diciamo, o degli appuntamenti di un ideale calendario civile che varrebbe la pena ricordare con maggiore attenzione, il tutto raccontato con la nostra passione e la musica che ci accompagna. Con la nostra passione e la musica che ci accompagna, la puntata di oggi, la seconda di questo gennaio 2018, è veramente un incontro tra quelli che sono gli ingredienti del nostro programma. Abbiamo una storia da riscoprire, i cattolici della contestazione e del dissenso, che andremo a indagare meglio attraverso dei libri per entrare nella ricorrenza dell'anno, cioè il 50° anniversario del 1968. Il 68, forse è superfluo dirlo, è stato uno dei grandi spartiacque del Novecento che ha trasformato in maniera dirompente la società in cui viviamo, ma è a partire da quella data che gradualmente è stato avviato un processo di cambiamento, la sedimentazione, no, delle novità e delle trasformazioni del 1968 è avvenuta poi nei molti anni, su decenni successivi. Alle uscite sulla stampa sull'oggetto 1968 dedicheremo una delle nostre abituali rassegne stampa. Nella puntata di oggi, primo appuntamento che consacriamo a questo 50° anniversario, andiamo invece a indagare una delle anime della contestazione, quella del mondo cattolico. Spesso trascurata e dimenticata all'interno delle facili schematizzazioni che si fanno sul periodo anni 60-70, la contestazione dei cattolici fu una delle prime esplosioni di critica e di mobilitazione che ci furono in Italia e che avrebbero portato poi all'esplosione del vero e proprio 68. Animati dallo spirito del Concilio Vaticano II, che consideravano come una finestra di opportunità per il cambiamento, i cattolici costituirono una sorta di avanguardia nel cambiamento più globale che ci fu, tanto che una delle prime significative occupazioni dell'università in Italia arrivò proprio nel 1967, proprio alla Cattolica di Milano. Per parlare del 68 dei cattolici andremo a coinvolgere due storici che hanno lavorato su questo argomento. Il primo che sentiremo è Alessandro Sant'Agata, l'autore di La contestazione cattolica, edito da Biella nel 2016, che ci parlerà del 68 dei cattolici più in generale. E poi entreremo in una storia più specifica, quella dei preti operai, con Giuseppina Vitale, l'autrice di L'anima in fabbrica, edito da Studium nel 2017. Per accompagnare questa puntata e per entrare, diciamo così, in argomento, ci ascolteremo un disco di Bruce Cockburn del 2017, Bone to Bone. Bruce Cockburn è un chitarrista folk canadese, animato da un certo spirito umanitario e da un forte cattolicesimo. Il disco ci è piaciuto molto e ci è sembrato quello più opportuno per entrare in argomento. Adesso ci ascoltiamo una traccia estratta proprio da Bone to Bone e poi sentiremo i nostri storici. taken a star by mountain taken star by mountain taken star by mountain spirit free star by mountain taken star by mountain taken star by mountain spirit free Con noi Alessandro Sant'Agata, storico dell'Università Roma Tor Vergata, collaboratore del Manifesto e diadista, che ci parlerà del 68 dei cattolici a partire dal suo libro La contestazione cattolica, movimenti, cultura e politica dal Vaticano II al 68, edito da Biella nel 2016. Ciao Alessandro, benvenuto a Vallun. Ciao, grazie a voi. Allora Alessandro, che cos'è stato il 68 dei cattolici? Da quali fermenti è nato? Naturalmente sappiamo che molto forte fu l'influsso dello spirito del Concilio Vaticano II con il suo spirito di rinnovamento, ma come mai fu così determinante il contributo dei cattolici allo svilupparsi di questa stagione di contestazione e poi allo sviluppo della nuova sinistra? Ma è una domanda appunto non facile a cui rispondere. Innanzitutto dobbiamo considerare che i cattolici hanno partecipato al 68 come tutti gli altri, non bisogna calcare troppo queste distinzioni, nel senso che sappiamo che viviamo in società dove ci sono più forme di appartenenza e naturalmente quelli che sono stati fermenti anti-autoritari studenteschi del 68 hanno riguardato i cattolici non diversamente dagli altri. Se andiamo a vedere per esempio quello che è successo alla Cattolica di Milano, per fare un esempio famoso, però nello stesso tempo è vero, come cercato di mostrare nel libro, che i cattolici hanno preso dal 68 e hanno portato delle cose del 68, hanno portato delle istanze che riguardavano principalmente la riforma della Chiesa come riforma legata anche alla società, alla riforma della società, al cambiamento della società. Il problema che veniva appunto dal Concilio è quello che il fatto che il Concilio avesse stabilito fondamentalmente la distinzione dei piani e quindi avesse stabilito per la Gaudium et Spes che il Partito Cattolico, inteso come partito dell'unità politica dei cattolici, non fosse più consono rispetto a quella che era l'evoluzione del pensiero della Chiesa e della dottrina. E quindi naturalmente questo tema, che poi si è declinato concretamente nella polemica contro la Democrazia Cristiana, il partito che pretendeva di rappresentare tutti i cattolici in maniera moderata e interclassista, è stato un tema centrale, a mio parere il tema centrale di quella fase. Ma ce ne sono naturalmente molti altri invece che riguardavano propriamente la riforma della Chiesa, il problema della sessualità, la polemica contro Umane Vitae, l'enciclica che diceva no alla pillola, il problema appunto della partecipazione dei laici alla vita della Chiesa, della polemica contro l'influenza della gerarchia e un pontificato come quello di Paolo VI considerato sostanzialmente moderato e di restaurazione. Però come dicevi, i cattolici hanno anche preso dal 68, non diversamente da altri, da questo punto di vista, cioè hanno partecipato a quel grande laboratorio di istanze anti-autoritarie, di nuove pratiche, di assemblearismo e hanno portato questi metodi anche nella contestazione dentro la Chiesa. E infine, per rispondere all'ultima parte della domanda, hanno dato un contributo fondamentale alla nascita della nuova sinistra, prima con la formazione di gruppi spontanei, gruppi che si cominciano a formare già dal 1967, e poi con la loro militanza interna anche all'organizzazione della nuova sinistra. Troviamo numerosi cattolici in Lotta Continua, per esempio, e nelle altre organizzazioni. Quindi insomma un fenomeno che va letto con delle dinamiche interne al cattolicesimo, ma anche e soprattutto come un fenomeno che fa parte della storia sociale e della storia politica dell'Italia repubblicana. Bene, grazie per l'ottima e bella risposta da questo punto di vista, che ci aiuta veramente a maturare una riflessione anche all'interno di Vallun sul 68, su cui, come dicevamo, dedicheremo altre puntate in questo 50° anniversario. E volevamo approfittare della tua presenza ai nostri microfoni per chiederti un'altra cosa. Si può parlare anche della contestazione cattolica in Emilia? L'Emilia è stata importantissima perché è stato un vero laboratorio, Bologna in particolare, perché era la sede di un arcivescovo, il cardinale Lercaro, che era stata una punta avanzata delle battaglie per la Chiesa dei Poveri al Concilio Vaticano II, per dirne soccicarne soltanto una campagna questa che aveva condotto, che non aveva avuto gli esiti che lui avrebbe sperato e che per certi aspetti invece è tornata di grande attualità con il pontificato attuale, quella dell'idea di una Chiesa povera e dei poveri. Ma Lercaro era anche l'arcivescovo del dialogo con i comunisti, l'arcivescovo che rappresentava Bologna nella sua natura di laboratorio politico. E quando viene allontanato all'inizio del 1968, questo è veramente un trauma che segna fondamentalmente, un trauma per Bologna, ma un trauma per l'Italia tutta. Poi in Emilia si tengono anche le prime riunioni dei gruppi spontanei. Uno dei principali è il Circolo Mariten di Rimini, che organizza insieme alla rivista Quest'Italia, alla stessa Dista, una serie di incontri per l'organizzazione dei gruppi per la nuova sinistra, che si tengono per la maggioranza a Bologna e tra il 67 e il 68. E infine c'è naturalmente alcuni grandi episodi di contestazione, come l'occupazione della cattedrale di Parma nel settembre del 68, che è uno degli episodi simbolici del 68 e che è stato studiato anche bene dagli studiosi, e che è un momento simbolico perché si occupa una chiesa, una cattedrale, anche se soltanto per un breve momento, una occupazione appunto di carattere simbolico, per denunciare quelle che sono le compromissioni tra la chiesa e il potere. The end of the day, ragged winged hawks swooping down on prey, curtain going up on the nighttime shadow play. Seen sun going down, set the sea on fire, black smoke boiling from burning tires, and bones in the mud was the blood sacrifice required. Ooh-wee, all the sights I've seen, in the depth of the world and the heart of a dream. Ooh-wee, all the places I've been, each one reflected in the states I'm in. States I'm in. Sat on hat. One day I feel like I'm in control, next I'm suspended in a bottomless hole, a drunk trying to shitty up a greased pole. Ooh-wee, all the sights I've seen, in the depth of the world and the heart of a dream. Ooh-wee, all the places I've been, each one reflected in the states I'm in. I'm slick as a dealer in a green eye shade, aces up his sleeve and he's not afraid. The mayor in his uniform, monkeys have been well paid. Climbing up the ivy to the balcony above, where pines the heart of my one true love. Obsession, delusion, all that waits is a fateful shove. All the sights I've seen, in the depth of the world and the heart of a dream. Ooh-wee, all the places I've been, each one reflected in the states I'm in. Oh, states I'm in. Thank you. canvas that the dawn corrodes into the title montage of a new episode. Whisper wells up from the deeps untrod, overflows the channel and spreads abroad, gathers in power like a lightning rod. Ooh-wee, all the sights I've seen in the depth of the world and the heart of the dream. Ooh-wee, all the places I've been, each one reflected in the states I'm in. Oh, states I'm in. The sights I've seen in the depth of the world and the heart of a dream. Ooh-wee, all the places I've been, each one reflected in the states I'm in. Oh, states I'm in. Bene, dopo esserci sentiti un pezzo di Bruce Cockburn, con cui stiamo accompagnando questa puntata di Valluna dedicata al 68 dei cattolici, ci mettiamo in collegamento con Giuseppina Vitale, storica che ha pubblicato l'anno scorso L'anima in fabbrica, storia, percorsi e riflessioni dei preti operai emiliani e lombardi, 1950-1980, edito da Studium. Un bel libro che, come si capisce dal titolo, viene dedicato proprio alle figure dei preti operai. Il rapporto, l'incontro fra Chiesa e mondo operaio, ma anche movimento operaio in Europa, ha avuto delle radici già nella prima parte del Novecento. Pensiamo alle esperienze della JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, cui è stato dedicato anche un fumetto edito in Italia da Cupress, La brutta gente di Étienne Davodeau, mentre in Italia sembra essere emerso proprio fra anni 60 e 70. Giuseppina Vitale, chi sono stati i preti operai e che ruolo hanno svolto in questo confronto fra Chiesa e movimento operaio? Sì, intanto vi ringrazio per questo invito. E la storia dei preti operai è una storia molto lunga che inizia durante la Seconda Guerra Mondiale in Francia. E, nacque in Francia a Parigi per invito, anche per le sollecitazioni avvenute da parte del cardinal Suar, arcivescovo di Parigi dal 1940 al 49. Se in primis questa esperienza nacque come sostegno agli operai che erano stati internati nei campi di lavoro appunto tedeschi durante l'occupazione tedesca in Francia. E in un secondo momento, se l'intento iniziale è stato un intento appunto di cristianizzazione degli ambienti operai, in un secondo momento i sacerdoti che fanno questa esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale, da evangelizzatori si trasformano in evangelizzati. Per cui questa vicinanza, questa esperienza, questo contatto con la classe operaia e con i movimenti operai ha fatto sì che nascesse una sorta di esigenza nuova di evangelizzazione e anche di pastoralità. Il Vaticano però, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa esperienza continuò. In Francia nacque la cosiddetta Mission de Paris o la Missione di Francia, che era un seminario che accoglieva allievi da tutte le diocesi francesi per prepararli all'azione negli ambienti più cristianizzati. E quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale questo intento e questa volontà continua, va avanti, però il Vaticano interviene con due interdizioni, la prima nel 1954 e la seconda nel 1959. Per cui tra queste due interdizioni si accavallano due generazioni di preti operai francesi, mentre poi la terza generazione francese, e che sarà per l'appunto la prima generazione italiana, nacque dopo il Concilio Vaticano II. E ovviamente il contatto con i movimenti appunto di contestazione politica e sociale degli anni 70, non soltanto in Italia ma in tutta Europa, ha condizionato fortemente questa forma di pastoralità sperimentale appunto partita dalla Francia, e in Italia, soprattutto a differenza della Francia, questa esperienza assumerà dei connotati prettamente politici, a differenza della Francia, dove questa esperienza è stata un'esperienza soprattutto vissuta in termini di pastoralità e in termini appunto teologici, in Italia la connotazione politica sarà una connotazione molto, molto forte. Bene, nella sua ricerca si è concentrata molto sui preti operai della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Ci potrebbe raccontare qualche storia sui preti operai della nostra regione? E anche, mi verrebbe da chiedere, hanno avuto un peso specifico, diciamo, un ruolo specifico nella storia del movimento operaio italiano e anche nella storia del movimento dei preti operai, questi sacerdoti lavoratori dell'Emilia Romagna? Sì, allora io nel volume ho approfondito due casi regionali, quello lombardo e quello emiliano, perché credo che questi due casi diano una maggiore risalto a quelle che a mio avviso sono state le due maggiori istanze partorite dal gruppo nazionale dei preti operai, vale a dire quella teologico-pastorale e quella politico-sociale. Ovviamente quella teologico-pastorale fu quella più sentita dai preti operai dell'Emilia Romagna, anche appunto per la differenza della conformazione economico-sociale della regione dell'Emilia Romagna rispetto alla Lombardia. E in Emilia Romagna la particolarità e ciò che rende il caso emiliano, e nel libro faccio anche un approfondimento sul caso modenese, ciò che rende appunto questo caso regionale una sorta di fiore all'occhiello è sicuramente la stretta concomitanza che questi sacerdoti ebbero con i movimenti di contestazione cattolica, quindi le comunità di base, tutti i movimenti sorti dalla base. Il coordinatore del gruppo regionale dei preti operai fu Giuseppe Dossetti Junior, il nipote per l'appunto del Dossetti costituzionalista. La figura di Dossetti è una figura molto particolare, una figura intanto molto carismatica che seguì e coordinò i preti operai fino al 1976, fino a quando si rese conto durante un convegno nazionale quella sorta di deriva ideologica che il gruppo nazionale stava in un certo senso prendendo, per cui Dossetti cercò di prendere le distanze dal gruppo nazionale ma di continuare a seguire il gruppo invece regionale. I personaggi, le diocesi che hanno ospitato il maggior numero di preti operai sono state quelle di Modena e di Parma, mentre a Bologna i preti operai nel 73, quelli censiti dalla segreteria nazionale dei preti operai, era uno solo. Anche la diocesi di Reggio Emilia ha ospitato 5 preti operai durante appunto nel 1973 dai dati della segreteria nazionale di Parma, per cui le diocesi che hanno ospitato il maggior numero di sacerdoti impiegati nel lavoro manuale sono state quelle di Modena e di Parma. A Modena, per esempio, la storia dei preti operai è strettamente legata alla storia della comunità di base del villaggio artigiano di Modena Ovest, e questi sacerdoti hanno partecipato attivamente a tutta la campagna referendaria in sostegno per il no del 1974, e questa partecipazione ha fatto sì che questi sacerdoti condividessero anche delle istanze politiche di autonomia politica nei confronti della Democrazia Cristiana e anche del Vaticano, arrivando fino a dei casi emblematici di restituzione del sacerdozio, così che ne parla l'ex prete operaio modenese Sandro Vesce nel 1976, quando si rese conto, dopo il duro intervento della fine del 1975 della CEI, che sosteneva che chi votava a sinistra non poteva essere un vero cristiano, e la CEI sosteneva che non si poteva essere cristiani e marxisti allo stesso tempo, per cui queste prese di posizione netta da parte della gerarchia provocarono anche delle conseguenze personali nella vita di alcuni sacerdoti che avevano militato attivamente nelle lotte appunto di emancipazione sociale che appunto ricadevano anche nella campagna referendaria del 1974. Ringraziamo molto Alessandro Sant'Agata e Giuseppina Vitale per essere stati con noi in questa puntata e per aver approfondito appunto il ruolo dei cattolici nel 68. Come dicevamo in introduzione di puntata, quello di oggi non è stato che il primo appuntamento di questo 2018 con il 50° anniversario del 1968 e avremo modo di riparlarne. Il tempo a nostra disposizione è decisamente finito, per cui per suggerimenti di letture e appuntamenti non ve li diamo in diretta questa volta, ma ve li diamo sulla nostra pagina Facebook che trovate all'indirizzo casos-vallunonair. Lì troverete appuntamenti, suggerimenti di lettura e anche una maniera per interagire con noi. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Priscilla, buon pomeriggio. Ciao!